zupa zupa zupa zupa peru. Zupa zupa zupa zupa pa. Zupa zupa zupa zupa peru. Zupa zupa zupa zupa pa. Una stella in una stalla, un papavero di paglia, tanti funghi in mezzo al bosco, tanto muschio nel mio teschio. Lascio il mio destino, sniffare un mandarino, in curva vado dritto, sempre senza freno. A Parigi cantano Milor, le regine succhiano bonbon, che la notte è lunga da passare, sotto i ponti in mezzo al mare. Un leone nelle vene, un deserto, una spirale, una bomba nel mio cuore. Astici e noci, un mare di luci, uno sballo di tango bestiale, un triplo salto mortale. Erba rossa selvaggia, una scure, una scheggia, per volare oltre il tempo. Di vento, vento, di vento. Zuppa, zuppa, zuppa, zuppa, pero. Zuppa, zuppa, zuppa, zuppa, pa. Zuppa, zuppa, zuppa, zuppa, pero. Zuppa, zuppa, zuppa, zuppa, pa. Contrappesi, è facile da dirsi per chi ha gli occhi chiusi. Malinconici, bipedi, bigotti, ti squadrano la bocca, ti sparano negli occhi. A Parigi cantano Milor, le regine succhiano bonbon, che la notte è lunga da passare sotto i ponti in mezzo al mare. Un leone nelle vene, un deserto, una spirale, una bomba nel mio cuore. Astici e noci, un mare di luci, uno sballo di tango bestiale, un triplo salto mortale. Erba rossa selvaggia, una scure, una scheggia, per volare oltre il tempo. Divento vento di vento, zuppa zuppa zuppa zuppa te, zuppa zuppa zuppa zuppa pa, zuppa zuppa zuppa zuppa te, zuppa zuppa zuppa zuppa pa. Zuppa zuppa zuppa pero, zuppa zuppa zuppa zuppa pa, zuppa zuppa zuppa zuppa pero, zuppa zuppa zuppa zuppa pa, bada bada zuppa zuppa bada bada mi pa pa da pa pa pero, zuppa zuppa zuppa zuppa pa pa pa pero, zuppa zuppa zuppa zuppa pero pa pa, zuppa zuppa zuppa zuppa pa.